Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Melanoma, il 90% dei pazienti guarisce, ma aumentano i casi tra i giovani. Questo è quanto sottolinea il quaderno informativo su melanoma cutaneo, curato dalla Fondazione IOM, che nasce con l'obiettivo di far conoscere a tutti i cittadini le informazioni su come prevenire e difendersi da questo tumore. A Obiettivo Salute il commento della dottoressa Stefania Gori, direttore del Dipartimento Oncologico Sacro Cuore Don Calabria Negrar di Valpolicella e presidente della Fondazione IOM. Sì, in questo quaderno che rappresenta un continuum di quanto Fondazione sta facendo per informare in maniera certificata i pazienti e i cittadini, viene sottolineato come sia necessario seguire dei comportamenti, degli stili di vita adeguati per prevenire il melanoma. Infatti, proprio seguendo questi comportamenti, evitando quindi di esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, evitando ricorrere per l'abbronzatura, ad esempio, ai lettini abbronzanti, utilizzando le creme a schermo solare, possiamo evitare di avere questa malattia. Ed inoltre nel quaderno viene sottolineato come è possibile una diagnosi precoce e riconoscere precocemente nelle fasi iniziali il melanoma, che poi verrà asportato chirurgicamente, può consentire la guarigione alla maggior parte delle persone. Quindi i messaggi molto incoraggianti, ma molto importanti anche per evitare il melanoma. Arriva dall'Italia una nuova frontiera nel settore della medicina rigenerativa. Un team di ricercatori dell'Università di Padova e dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare ha messo a punto una nuova tecnologia che consente di stampare in 3D tessuti all'interno di organismi viventi. A Obiettivo Salute ci aiuta a capirne di più la dottoressa Anna Urciuolo, ricercatrice all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare e prima autrice dello studio. Il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato questo gel che è in grado di essere iniettato all'interno dell'organismo e dei tessuti e mediante un fascio di luce derivante da un laser che è in grado di attraversare i tessuti è possibile convertire questo gel lì in un gel solido e quindi di dare forma ad un tessuto a seconda della necessità. Diciamo che le implicazioni più importanti riguardano quello che è l'applicazione di questa tecnologia per la medicina rigenerativa associata a chirurgia non invasiva. Chiaramente questo studio ad oggi è in forma preclinica, quindi ci sarà sicuramente necessità di sviluppi ulteriori, ma i risultati che abbiamo ottenuto sono molto promettenti. E per oggi è tutto. Come ogni giorno vi invito sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute a partecipare ai nostri incontri. A tu per tu oggi, insieme a noi, il professor Giorgio Sesti, ordinario di medicina interna all'Università La Sapienza di Roma, con cui parleremo di glicemia. Quanto ne sappiamo? Qual è l'ultima volta che l'abbiamo misurata? E che valori abbiamo di glicemia? Restate con noi, buona giornata!